ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Martedì 29 settembre 1942. Cara Kitty, a vivere nascosti succedono cose strane. Pensa, visto che non abbiamo una vasca da bagno, usiamo una tinozza e visto che solo nell'ufficio, per ufficio intendo sempre tutto il piano di sotto, c'è l'acqua calda, tutti e sette a turno approfittiamo di questo lusso. Ma poiché tutti e sette siamo così diversi e un paio sono più pudichi degli altri, ogni componente della famiglia si è scelto un luogo diverso dove fare il bagno. Peter lo fa in cucina, anche se la cucina ha una portavetri. Quando gli viene l'idea di farsi il bagno, viene da ognuno di noi singolarmente e ci comunica che per mezz'ora non potremo passare davanti alla cucina. Questa misura gli sembra sufficiente. Il signore fa il bagno addirittura di sopra. Per lui la sicurezza della propria stanza compensa la scomodità di portare l'acqua calda su per le scale. La signora per il momento non si fa il bagno, aspetta di scoprire il posto migliore. Papà usa l'ufficio privato, mamma fa il bagno in cucina dietro il paravento della stufa. Margot e io, per sguazzare, ci siamo scelte l'ufficio principale. Sabato pomeriggio vengono tirate le tende e noi ci laviamo al buio, mentre quella delle due che aspetta il suo turno guarda fuori dalla finestra attraverso uno spiraglio e si diverte a osservare la gente per strada. Giovedì 1 ottobre 1942. Carissima Kitty, ieri mi sono spaventata moltissimo. Alle 8 c'è stata un'improvvisa scampanellata. Subito ho pensato che fosse arrivato qualcuno, sai già chi. M'hanno detto che sicuramente dovevano essere Monelli o il postino e mi sono tranquillizzata. Qui le giornate passano molto lentamente. Levinson, un piccolo farmacista e chimico ebreo, sta lavorando in cucina per conto del signor Kugler. Conosce molto bene tutta la casa, per questo abbiamo paura che gli venga in mente di andare a dare un'occhiata nel vecchio laboratorio. Noi non facciamo nessun rumore. 3 mesi fa, chi avrebbe immaginato che Anne, che ha sempre l'argento vivo addosso, avrebbe dovuto e potuto starsene tranquilla per ore di seguito? E per concludere, un quesito particolarmente spiritoso del signor Van Danna. Che cosa fa click 999 volte e una volta clac? Un millepiedi zoppo. Ciao, tua Anne. Sabato 3 ottobre 1942. Carissima Kitty, ieri mi hanno molto presa in giro perché ero stata distesa sul letto del signor Van Danna. Già così precoce, uno scandalo e altre espressioni simili. Che stupidaggine. Non vorrei mai dormire col signor Van Danna, in senso generico, ovviamente. Ieri c'è stato un altro scontro e la mamma ha avuto una reazione terribile. Ha raccontato al babbo tutti i miei peccati e poi si è messa a piangere forte, io anche naturalmente, e avevo già un tremendo mal di testa. Finalmente ho detto al babbo che voglio molto più bene a lui che alla mamma. Ha detto che passerà, ma io non ci credo. Attualmente ho per le mani La giovinezza di Eva di Nico van Suchtelen. La differenza tra i romanzi per giovinette e questo non è molta. Eva crede che i bambini crescano sugli alberi come le mele e che la cicogna li raccolga quando sono maturi e li porti alle madri. Ma la gatta della sua amichetta fa i gattini. Lei invece credeva che i gatti deponessero le uova come le galline e poi le covassero. E che anche le madri, un paio di giorni prima di avere un bimbo, andassero di sopra a deporre un uovo per poi covarlo. Quando poi nasce il bimbo, la madre è un po' stanca per essere stata covacciata tanto a lungo. Anche Eva voleva avere un bimbo. Prese una sciarpa di lana e la mise per terra per deporci sopra l'uovo. Poi si accovacciò e si mise a spingere. Fece persino il verso della gallina, ma niente uova. Finalmente, dopo un bel po', uscì qualcosa, che però non era un uovo, ma una cacchetta. Eva si vergognava moltissimo, temeva di essere malata. Buffo, eh? In la giovinezza di Eva si parla anche di donne che vendono il corpo per la strada in cambio di un sacco di soldi. Se fossi uno di quegli uomini mi vergognerei a morte. E poi c'è anche scritto che Eva ha le mestruazioni. Io non vedo l'ora che mi vengano, almeno poi sarò adulta. Papà dice che mi porterà via il diario. Orrore, lo dovrò nascondere. Anne Frank. Mercoledì 7 ottobre 1942. Provo a immaginare che vado in Svizzera. Io e papà dormiamo nella stessa stanza, mentre la stanza dei ragazzi, i miei cugini, diventa il mio salottino per ricevere ospiti. Per farmi una sorpresa hanno comprato mobili nuovi, tavolino da tè, scrivania, poltrone e divano, tutto stupendo. Dopo un paio di giorni papà mi dà 150 fiorini, in valuta locale ovviamente, ma diciamo che uso i fiorini, con cui mi dice di comprare tutto quello di cui credo di aver bisogno, esclusivamente per me. Poi mi darà un fiorino alla settimana con cui potrò comprare sempre quello che vorrò. Esco con Bernd e acquisto. 3 camicie estive, cada una 0,50. 3 paia di mutande estive, cada uno 0,50. 3 camicie invernali, cada uno 0,75. 3 paia di mutande invernali, cada uno 0,75. 2 sottovesti, cada una 0,50. 2 reggiseni della misura più piccola, cada uno 0,50. 5 pigiami, un fiorino. Una vestaglia estiva, 2,50. Una vestaglia invernale, 3 fiorini. Una liseuse, 0,75. Un cuscinetto, un fiorino. Un paio pantofole estive, un fiorino. Un paio pantofole invernali, un fiorino. Un paio scarpe estive scuola, 1,50. Un paio scarpe estive buone, 2 fiorini. Un paio scarpe invernali scuola, 2,50. Un paio scarpe invernali buone, 2 grandi fiorini, 0,50. 25 fazzoletti, 0,05. 4 paia calze di seta, 0,75. 4 paia calzettoni, 0,50. 4 paia calzini, 0,25. 2 paia calzettoni pesanti, un fiorino. 3 gomitoli lana bianca, mutande berretto, 3 gomitoli lana blu, maglione, gonna, 1,50. 3 gomitoli lana variopinta, berretto, sciarpa, 1,50. Cinture, colletti, bottoni, 1,25. 2 vestiti per la scuola estate, 2 vestiti per la scuola inverno, 2 vestiti belli estate, 2 vestiti belli inverno. Una gonna estiva, una gonna invernale buona, una gonna per la scuola invernale, un impermeabile, un soprabito, un cappotto, 2 cappelli, 2 berretti, in tutto 108 fiorini, 2 borsette, un completo da pattinaggio sul ghiaccio, un paio pattini con stivaletto, un cofanetto con cipria, crema nutriente, fondotinta, latte detergente, olio solare, ovatta, l'occorrente per medicazioni, belletto, rossetto, matita per gli occhi, sali da bagno, borotalco, eau de cologne, sapone, 4 maglioncini, cada uno, 4 camicioli, cada uno, un fiorino, diverse cose da 10 e libri regali per 4,50. Venerdì 9 ottobre 1942. Caracchitti, nient'altro che notizie tristi e deprimenti ho da darti oggi. I nostri molti amici ebrei un po' alla volta vengono deportati tutti. La Gestapo per questa gente non ha il minimo riguardo. La si carica semplicemente su carri bestiame e la si trasporta a Westerbork, il grande campo di concentramento per ebrei nella Drente. Miep ci ha raccontato di qualcuno che è scappato da Westerbork. Westerbork deve essere tremendo. Non ti danno quasi niente da mangiare, per non parlare del bere. C'è acqua solo per un'ora al giorno e solo un bagno e un gabinetto per alcune migliaia di persone. Dormono tutti insieme, uomini, donne, e a queste e ai bambini vengono spesso rasati i capelli. quasi impossibile fuggire. La gente è segnata dal cranio rasato e spesso dall'aspetto ebraico. Se già in Olanda è così grave, come vivranno nelle terre barbariche e lontane dove vengono mandati? Supponiamo che per lo più vengano assassinati. La radio inglese parla di camera gas. Forse è la morte più rapida. Sono totalmente sconvolta. Miep racconta questi fatti orribili in modo toccante e a volte anche lei è molto agitata. Recentemente, per esempio, c'era una vecchietta ebrea paralitica che aspettava davanti a casa sua che la Gestapo tornasse a prenderla con un'auto. La poveretta aveva tanta paura degli spari contro gli aerei inglesi che passavano sulla città e anche delle luci abbaglianti dei fari. Però Miep non ha osato farla entrare, nessuno l'avrebbe fatto. I signori tedeschi non fanno economia di punizioni. Anche Beppe non dice più niente. Il suo ragazzo deve andare in Germania. Ogni volta teme che gli aerei che volano sopra le nostre case sgancino le bombe, spesso da un milione di chili, proprio sulla testa di Bertus. Battutine come «non saranno proprio un milione» e «tanto basta una bomba» le trovo del tutto fuori luogo. Bertus non è certo il solo che deve andarci. Ogni giorno partono treni carichi di ragazzi, strada facendo, quando si fermano a qualche stazioncina. A volte scendono di soppiatto e cercano di nascondersi. Forse qualcuno ci riesce. Il canto funebre non è ancora finito. Hai mai sentito parlare di ostaggi? È la nuova punizione che è stata introdotta per i sabotatori. È la più orribile che puoi immaginare. Cittadini innocenti, uomini noti, vengono tenuti prigionieri in attesa di essere assassinati. Se c'è un sabotaggio e non salta fuori il colpevole, senza tanti complimenti, la Gestapo mette al muro 5 ostaggi. Spesso sul giornale ci sono gli annunci mortuari di queste persone. Il crimine viene definito incidente fatale. Bel popolo quello tedesco. E in realtà ne faccio parte anch'io. Ma no, Hitler ci ha già da tempo resi apolidi. E poi in tutta la terra non esiste inimicizia più grande di quella tra tedeschi ed ebrei. Tua Anne. Mercoledì 14 ottobre 1942. Cara Kitty, mamma, Margot e io andiamo di nuovo d'amore e d'accordo. Devo dire che così è molto più gradevole. Ieri sera Margot e io eravamo distese sul mio letto. Era molto stretto, ma proprio per questo divertente. Mi ha chiesto se un giorno le farò leggere il mio diario. Qualche pagina sì, le ho detto, chiedendole del suo. Allora anche lei me lo farà leggere. Così siamo venute a parlare del futuro e le ho domandato che cosa farà da grande. Lei però non me l'ha voluto dire, ne fa un gran mistero. Ho sentito parlare di insegnamento. Non so se sia vero, ma immagino che debba essere qualcosa in quella direzione. Però non dovrei essere così curiosa. Stamattina ero sul letto di Peter, dopo aver cacciato via lui. Era furibondo contro di me. Ma non me ne importa proprio niente. Potrebbe davvero essere più gentile con me, perché ieri sera gli ho regalato un'altra mela. Una volta ho chiesto a Margot se mi trova molto brutta. Lei ha risposto che sono un po' buffa e che ho begli occhi. Piuttosto vago, non trovi? Beh, a risentirci. Anne Frank. Post scriptum. Stamattina ci siamo di nuovo messi tutti sulla bilancia. Margot pesa 60 kg, mamma 62, papà 70, Anne 43, Peter 67, signora Van Daan 53, signor Van Daan 75. Nei 3 mesi che sono qui sono aumentata di 8 kg, un sacco, Martedì 20 ottobre 1942. Cara Kitty, Mi trema ancora la mano, anche se lo spavento che ci siamo presi è già passato da 2 ore. Devi sapere che in casa abbiamo 5 estintori Minimax. Visto che sono così furbi, quelli di sotto non ci avevano avvertiti che il falegname, o come diavolo si chiama il tizio che fa questo lavoro, sarebbe venuto a riempirli. Per questo non sapevamo di non dover fare rumore fino a quando non ho sentito martellare sul pianerottolo davanti alla nostra porta libreria. Ho pensato subito a un falegname e ho avvertito Beppe che stava mangiando di non scendere. Papà e io ci siamo appostati dietro la porta per sentire quando l'uomo se ne andava. Dopo aver trafficato per un quarto d'ora, ha appoggiato il martello e gli altri attrezzi sul nostro scaffale, o così ci è parso, e ha bussato alla porta. Siamo sbiancati. Aveva dunque effettivamente sentito qualche cosa e voleva scoprire da dove venisse il rumore. Così ci è sembrato. Ha continuato a bussare, tirare e spingere. Quasi svenivo per la paura che a quell'uomo perfettamente estraneo potesse riuscire di scoprire il nostro bel nascondiglio. E proprio quando cominciavo a temere il peggio, sentiamo la voce del signor Kleiman: «Aprite, sono io!» Abbiamo aperto. Che cos'era successo? Il gancio che tiene fermo lo scaffale si era incastrato. Per questo nessuno aveva potuto avvertirci che veniva il falegname. L'uomo era sceso e Kleiman era venuto a chiamare Bepp, ma non era riuscito a sganciare lo scaffale. Posso assicurarti che mi sono sentita molto sollevata. L'uomo che pensavo volesse entrare da noi, nei miei pensieri aveva assunto dimensioni sempre più grandi. Alla fine era come un gigante, uno di quei fascisti della peggior sorta. Ah, per fortuna questa volta ci è andata bene. Lunedì 2 novembre 1942. Carissima Kitty, venerdì sera è stata da noi Beppe. È stata una bella serata, ma lei non ha dormito bene perché aveva bevuto vino. Per il resto, niente di particolare. Ieri avevo un forte mal di testa e sono andata a dormire presto. Margot è di nuovo antipatica. Stamattina mi sono messa a riordinare uno schedario dell'ufficio perché si era rovesciato ed era tutto in disordine. È un lavoraccio. Così ho chiesto a Margot e a Peter di darmi una mano, ma quei due sono troppo pigri. E io ho smesso. Non sono così scema da farlo tutto da sola. Tua Anne. Postscriptum. Dimenticavo di darti l'importante notizia che probabilmente presto avrò le mestruazioni. Lo so, perché ho sempre le mutandine macchiate di una cosa appiccicosa e poi me l'ha detto la mamma. Non vedo l'ora. Mi sembra così importante. Peccato però che non potrò usare gli assorbenti, perché anche quelli non si trovano più, e quei bastoncini della mamma li possono usare solo le donne che hanno già avuto un bambino. 22 gennaio 1944, aggiunta. Ora non potrei più scrivere cose simili. È passato un anno e mezzo, e sfogliando questo diario non riesco proprio a capacitarmi di essere stata tanto ingenua. Distinto, so che, anche desiderandolo ardentemente, non potrei mai tornare a essere così. I commenti sulle liti e sul conto di Margot, mamma e papà, invece sono ancora molto attuali, avrei potuto scriverli ieri, tali e quali, mentre non riesco a capire come ho potuto trattare altri argomenti così senza riserbo. Provo autentica vergogna a rileggere quello che ho scritto su temi cui preferisco pensare in termini più positivi. Ho scritto cose davvero poco carine, ma basta così. Proprio come allora, anche adesso, ho nostalgia di morti. Spesso coscientemente, ma ancora più spesso senza rendermene conto, durante tutto il tempo che ho trascorso e sto passando qui, ho sentito un desiderio di confidenza, affetto e coccole. È un desiderio ora più forte e ora meno, ma sempre presente. Giovedì 5 novembre 1942. Cara Kitty, gli inglesi hanno finalmente ottenuto qualche vittoria in Africa e anche Stalingrado non è ancora caduta. Per questo i signori di sopra sono molto felici e questa mattina abbiamo bevuto caffè e tè. Per il resto, Niente di speciale. Questa settimana ho letto molto e lavorato poco. Bisogna fare così in questo mondo per tirare avanti. Domenica è il compleanno di Peter, ma di questo scriverò sicuramente in seguito. Mamma e io andiamo un po' più d'accordo negli ultimi tempi, ma tra noi non c'è mai confidenza e papà nasconde qualche cosa. Comunque è un tesoro come sempre. Da un paio di giorni la stufa è accesa e tutta la stanza è invasa di fumo. Preferisco di gran lunga il riscaldamento centrale e in questo sono sicura di non essere la sola. Margot è una vera strega, mi tormenta giorno e notte. Anne Frank. Lunedì 9 novembre 1942. Cara Kitty, ieri era il compleanno di Peter. Ha compiuto 16 anni. Alle 8 ero già di sopra per vedere i regali. Tra le altre cose ha ricevuto il gioco della borsa, un rasoio e un accendino. Non è che fumi molto, anzi, è più che altro per darsi un tono. La sorpresa più grande l'abbiamo avuto a Luna, quando il signor Van Dan è venuto a comunicarci che gli inglesi sono sbarcati a Tunisi, Algeri, Casablanca e Orano. È l'inizio della fine, hanno detto tutti, ma Churchill, il primo ministro inglese, che probabilmente in Inghilterra aveva sentito la stessa esclamazione, ha commentato: «Questo sbarco è un evento molto importante, ma non si deve pensare che sia l'inizio della fine, direi piuttosto che è la fine dell'inizio». Riesci a cogliere la differenza? Motivi per essere ottimisti ce ne sono. Stalingrado, quella città russa che ormai difendono da 3 mesi, non è ancora caduta in mano ai tedeschi. Ah, quasi mi dimenticavo. Papà è ormai completamente guarito. Tua Anne. Martedì 10 novembre 1942. Cara Kitty, grande novità. Ci sarà un ottavo inquilino. Sì. Già da sempre eravamo convinti che qui c'è spazio e cibo a sufficienza per un'ottava persona. Avevamo solo paura di approfittare troppo di Kugler e di Kleiman. Ma adesso che le notizie sugli ebrei sono ancora peggiorate, papà ha parlato con i 2 interessati e loro sono stati subito d'accordo. Il pericolo per 7 o 8 persone è uguale, hanno detto. Ed è vero. Stabilito questo, ci siamo guardati intorno mentalmente nella nostra cerchia di amici in cerca di una persona sola che potesse adattarsi alla nostra famiglia di clandestini. Non è stato difficile trovare qualcuno che avesse le caratteristiche giuste. Dopo che papà aveva scartato tutti i parenti dei Van Dan, la scelta è caduta su un dentista di nome Alfred Dussel. Vive con una donna cristiana simpatica e molto più giovane, con cui probabilmente non è sposato, ma questo non c'entra. Si dice che sia un uomo tranquillo e gradevole e, anche se lo conosciamo solo superficialmente, pare che sia simpatico tanto ai Van Dan quanto a noi. Anche Miep lo conosce, così può avviare lei la cosa. Quando verrà, Dussel dovrà dormire nella mia stanza, al posto di Margot, alla quale sarà assegnato il letto pieghevole. Gli chiederemo di portare qualcosa per tappare molari bucati. Tua Anne.